Perché non li avete invitati però i politici a Capri? Li abbiamo invitati in questo caso ad ascoltare. Non abbiamo invitato sul palco per la questione che dicevo prima, perché ci siamo stancati delle molte promesse. Ci piacerà o ci piacerebbe, se vuole, che tra qualche mese, al prossimo convegno nazionale, un esponente politico del governo ci venga a dire: cari signori, abbiamo fatto finalmente questo, questo e questo, e attraverso queste scelte coraggiose, anche se difficili, è ripartita la crescita, a partire appunto dall'occupazione per i giovani. Sì, a mia memoria non è mai successo forse che in un convegno di Confindustria dei giovani non arrivassero. È la prima volta. No, che la dice sì. Lunga anche sulla la pazienza che finisce. Io so che lei ci deve lasciare per impegni istituzionali. Ho ancora però una domanda per lei, con grosso scoramento del suo ufficio stampa, ed è la seguente. Il tema dei giovani del passaggio generazionale è anche un tema che riguarda le imprese. Sì. Allora, io non ho mai pensato che se tu sei giovane, sei donna, sei giovane o donna o tutte e due le cose, devi per forza essere meglio, perché mi sembrano ragionamenti ideologici. Però è anche vero che il tema del passaggio generazionale c'è dentro Confindustria, c'è una difficoltà dei giovani a prendere in mano le redini delle aziende, ci sono padri che non vogliono lasciare le imprese, ci sono giovani che vivono l'impresa come un prodotto paterno e quindi non riescono a spingere. Lo solleverete questo tema? Ma guardi, questo è un tema antico quanto la mitologia. Zeus, che naturalmente va insieme ai fratelli e si ribella contro il padre e così via. Qui è questione, guardi, è questione che ciascuno cerchi di fare al meglio quello che è il proprio mestiere. I giovani, francamente, che sono capaci anche nel mondo delle imprese, emergono. In generale non è una questione di giovanilismo, anche lì ci sono delle ricerche molto interessanti da un punto di vista internazionale. Solitamente le imprese gestite o fondate da under 40 hanno tassi di crescita e di sviluppo di molto superiori rispetto alle altre, perché maggiormente propense, con un'attitudine superiore, a incorporare maggiore tecnologia, innovazione e quindi produttività. Ma se un giovane non ha voglia di stare nell'impresa, è giusto che faccia altro? Ma assolutamente, voglio dire, perché c'è anche un tasso molto alto di giovani imprenditori che, guardi, sono meglio un ottimo azionista che un pessimo imprenditore, e poi ci sono tante persone brave come manager che possono intervenire da questo punto di vista.